Il punto di Stefano Folli. Su un punto Matteo Renzi ha ragione e su un altro ha torto. Ha ragione quando dice, parlando dell'eterna questione della riforma elettorale, che bisogna discutere con tutti, non soltanto con i soci della maggioranza. Ed è evidente che il neo segretario del PD non vede l'ora di liberarsi dei confini angusti e soffocanti dell'alleanza di governo per giocare a tutto campo, da Forza Italia ai 5 Stelle. Dove invece Renzi ha torto è nel far credere che riformare la legge elettorale sia facile, in quanto di modelli fra cui scegliere ce ne sarebbero a bizzeffe, parole sue. Naturalmente non è così. I modelli elettorali utili all'Italia sono pochi e vanno calibrati bene, altrimenti si rischia di fare un altro danno alla già sconnessa democrazia del nostro paese. Dire che riformare è semplice perché una norma vale l'altra, una volta stabilito il profilo maggioritario della nuova legge, significa commettere un grosso errore, e la nostra politica di errori non se ne può consentire più, altrimenti saremo ricacciati indietro nel nostro innato provincialismo.